Bibbia Martini, Atti degli Apostoli 24. Paolo accusato dinanzi a Felice da Tertullo, oratore dei Giudei, risponde negando i delitti che gli erano apposti, ma confessandosi cristiano, e di aver detto di essere in giudizio per causa della risurrezione dei morti. Felice con Drusilla, sua moglie giudea, ascoltano Paolo sopra la fede di Cristo, ma non essendogli dato denaro da Paolo, lo riserba in catene al suo successore Porzio Festo. E di lì a 5 giorni arrivò il principe dei sacerdoti Anania con i signori, e con un certo Tertullo oratore, i quali dider comparsa al preside contro Paolo. E citato Paolo, cominciò Tertullo l'accusazione, dicendo, che molta pace noi per te godiamo, e molte cose siano ammendate dalla tua previdenza, lo riconosciamo sempre. E in ogni luogo con tutta la gratitudine, o ottimo Felice. Ma per non disturbarti più lungamente, pregoti, che per breve ora ci ascolti con la tua umanità. Abbiamo trovato quest'uomo pestilenziale, che istiga a sedizione tutti i giudei per tutto il mondo, e capo della ribellione della setta dei Nazarei, il quale ha tentato Ezziandio di profanare il Tempio. E avendolo noi preso, volemmo secondo la nostra legge giudicarlo. Ma sopraggiunto il tribuno Lisia, lo tolse con molta violenza dalle nostre mani, avendo ordinato che venisser da te i suoi accusatori, e da lui potrai tu, disaminandolo, essere informato di tutte queste cose, delle quali noi lo accusiamo. E i giudei soggiunsero che le cose stavan così. E Paolo, avendogli il preside fatto segno che parlasse, rispose, sapendo che da molti anni tu governi questa nazione di buon animo darò conto di me, impero che tu puoi venire in chiaro, come non sono più di 12 giorni, che io arrivai a Gerusalemme per far la mia adorazione, e non mi hanno trovato a disputar con alcuno nel Tempio, né a far sollevamento di popolo nelle sinagoghe. O per la città, ne possono addurre dinanzi a te prova delle cose, onde ora mi accusano. Io però ti confesso, che secondo quella scuola, che essi chiamano eresia, così servo al Padre, e Dio mio, credendo tutte quelle cose, le quali nella legge, e nei profeti sono scritte, avendo speranza in Dio, che verrà quella, che essi medesimi aspettano, risurrezione dei giusti, e deghe l'iniqui, per le quali cose io mi studio di conservar sempre incontaminata la coscienza dinanzi a Dio, e agli uomini. E dopo vari anni sono venuto a portare delle limosine alla mia nazione, e oblazioni, e voti. E tra queste cose mi hanno trovato purificato nel Tempio, senza raunata di gente, e senza tumulto. E che certi giudei dell'Asia, i quali doviam pur comparire davanti a te, e accusarmi, se alcuna cosa avessero contro di me, ovvero questi stessi dicano, se hanno trovato in me colpa quando son io stato nel Sinedrio, eccettuata quella sola voce, onde gridai stando in mezzo di essi, io sono oggi giudicato da voi sopra la risurrezione dei morti. Ma Felice informato appieno di quella dottrina, diede loro una proroga dicendo, venuto, che sia il tribuno Lisia, vi ascolterò. E diede ordine al centurione, che custodisse Paolo, ma che fosse meglio trattato, né si vietasse ad alcuno dei suoi di prestargli assistenza. E passati alcuni giorni tornato Felice con Drusilla sua moglie, la quale era giudea, chiamò Paolo, e lo udì parlare della fede in Gesù Cristo. E disputando egli della giustizia, della castità, e del giudizio futuro, atterrito Felice disse, per adesso vattene, e a suo tempo ti chiamerò, e insieme stava in speranza, che Paolo gli avrebbe dato del denaro, per la qual cosa frequentemente facendolo a sé venire, discorreva con lui. E uniti i 2 anni, Felice ebbe per successore Porcio, Festo. E Felice volendo ingraziarti co giudei, lasciò Paolo in catene. Note, 24,1, e di lì a 5 giorni. 5 giorni dopo l'arrivo di Paolo a Cesarea, con un certo Tertullo oratore, e questo Tertullo era un avvocato romano, e per conseguenza pratico della maniera di trattare le cause nel foro romano meglio che i giudei. E per questo lo condussero questi seco a Cesarea per accusar Paolo dinanzi a Felice. 24,2. Che molta pace noi per te godiamo, e ci Felice benché fosse un governatore avaro e crudele, nulla di meno avea procurata la quiete e la tranquillità del paese, liberandolo da una turba di assassini, de quali era capo un certo Eleazzaro, e dall'egiziano, di cui si fa menzione in questo libro, capitolo 21-38. 24,5, capo della ribellione della setta dei Nazarei. Così chiamavansi per ischerno i cristiani da giudei e da maomettani. Tertullo dice che Paolo era capo della ribellione della setta dei Nazarei, quasi volendo dare a intendere non altro essere il cristianesimo che una setta di giudei ribelli alla legge di Mosè e alla potestà e al governo giudaico. 24,6. Ha tentato Eziandio di profanare il tempio e ci introducendo dei gentili nell'atrio dei giudei, lo che era delitto capitale, come racconta Giuseppe de Bello Lib, 6. Tertullo dice che avendo Paolo commesso simil delitto, aviam voluto i giudei farne giudizio secondo la legge, ma ne erano stati impediti dal tribuno. Abbiamo però veduto, capitolo 21-31, come sopra un semplice e falso sospetto cercavano non di condurlo dinanzi a giudici, ma di ucciderlo. Questo solo sia detto sopra questa accusa, la qual altro non è che una serie di menzogne e di falsità troppo facili a confutarsi, e troppo ben confutate da Paolo. 24,8. E da lui potrai tu, disaminandolo, ecc, si può anche tradurre, mettendolo a tormenti, ovvero dandogli la tortura. 24,10. Sapendo che da molti anni queste cose avvennero alla fine del governo di Felice, il quale fu preside per 8 o 9 anni. Vuol dire adunque l'apostolo che di buon animo si difenderà dinanzi a lui contro le accuse dategli di sedizioso e di ribelle, perché egli ha ben potuto sapere se in tutti quegli anni addietro vi fosse traccia che egli macchinato avesse contro il governo o contro lo stato degli ebrei. 24,11. Tu puoi venire in chiaro e ci tu ben puoi per mezzo di testimoni verificare, da quanto tempo io sia arrivato a Gerusalemme. Pare che Tertullo voglia far credere che da lungo tempo io sia qua a ordir cabale e sedizioni. Ma tu puoi facilmente informarti e sapere che non sono che 12 giorni, dei quali 7 li ho passati in catene. È egli possibile, o verissimile, che in 5 giorni un uomo solo senza partigiani, senza aderenze possa avere potuto far tanto da concitare una sedizione, per far la mia adorazione. Motivo ben differente da quello, per cui si dice essere io andato nel tempio, motivo però, di cui si hanno le prove, perché appunto mentre alle cose di pietà e di religione io era inteso nello stesso tempio, fui preso da giudei, vedi V18. 24,12. E non mi hanno trovato a disputare. Non dice questo perché fosse proibito il disputare nel tempio intorno alle cose spettanti alla legge, ma per far meglio conoscere essere lui stato lontano anche da ogni apparenza di volere per alcuna via insinuarsi col popolo o far adunanza nelle sinagoghe, le quali erano in gran numero in Gerusalemme e piene di gente, la quale vi concorreva per lo studio della legge. 24,14. Secondo quella scuola. Servo al Padre. Credendo tutte quelle ci apparteneva all'onore di Gesù Cristo questa confessione dell'Apostolo, nella quale consisteva però tutto il suo reato. Confessa dunque di essere cristiano, checché di questo nome, e di questa setta di Cano gli ebrei, setta, la quale professa di onorare e credere tutto quello che delle cose di Dio sta scritto nella legge e nei profeti, ossia in tutto il Vecchio Testamento. 24,15. che verrà quella che essi medesimi aspettano. E la risurrezione è l'oggetto principalissimo della fede, e come tale era riguardata anche da Giudei 24,16, per le quali cose io mi studio e la intima persuasione di questa importantissima verità mi tiene in una grande attenzione di fuggir tutto quello che possa offendere Dio o dispiacere agli uomini. Questo è infatti il naturale effetto che deve produrre la viva fede della risurrezione e della vita a venire. 24,17 e dopo vari anni. Vuol dire dopo vari anni di assenza da Gerusalemme. Sono venuto a portare delle limosine e oblazioni e voti. Quasi dicesse, in tutto questo vuoi egli cosa che sia contraria o alla carità, che debbo alla mia nazione o alla legge, ovvero al rispetto e alla venerazione dovuta al tempio. 24,18. E tra queste cose mi hanno trovato purificato e ci Paolo era stato preso, mentre con i Nazarei era inteso ad uffizi di pietà. Capitolo 21. 26. 27. Rifiuta qui invincibilmente le due accuse. La prima di profanazione del tempio, mostrando che non vi è entrato se non dopo essersi purificato secondo la legge, e per fini di religione. La seconda di sedizione, perché era con sole quattro persone occupato a tutt'altro che a far combriccole, raunar della gente. 24,19-20. E che certi giudei dell'Asia, e bisogna unire questi due versetti per intendere il sentimento dell'Apostolo. Dice egli adunque, che sto io a difendermi nel ribattere i delitti appostimi dai miei nemici? Dicano che certi giudei asiatici, che mossero a rumore e tumulto la città tutta contro di me, dicano essi. Ma giacché quelli, che avrebbero pur dovuto comparire alla tua presenza a sostenere le loro accuse, non sono venuti, dicano almeno questi stessi giudei, che sono qui presenti. Se allorché fui presentato al loro sinedrio fu recata a prova di alcun delitto da me commesso. 24,21, eccettuata quella sola voce, e seppure non è un delitto l'aver io ad alta voce professato di credere la risurrezione, e l'aver detto, che per cagione di questa io era stato condotto in giudizio. Queste parole ferivano e Anania, e gli altri sadducei. 24,22. Ma felice informato appieno di quella dottrina, diede loro una proroga. E ci felice dopo un governo di 8 o 9 anni nella Giudea dove a ben sapere che il cristianesimo non era una scuola d'uomini inquieti e sediziosi. Con tutto questo, e con tutta la evidente innocenza dell'apostolo non lo liberò. Le ragioni si vedranno v. 26. 27. Solamente ordinò che fosse trattato meno male. 24,24. Tornato felice con Drusilla e ci tornato da qualche breve viaggio. Drusilla era figlia di Agrippa e re dei Giudei, sorella di Agrippa il giovine, donna di pessimi costumi, la quale per risposar felice aveva abbandonato il suo primo marito, Aziz re degli Emeseni. 24,25. Della giustizia, della castità e del giudizio futuro, e ci felice era ingiusto e avaro, ed egli e la sua moglie erano adulteri. E Paolo, come un altro Giovanni, parla liberamente di queste due virtù, fondamento della vita cristiana, e finalmente gli atterrisce con la minaccia dei castighi eterni inevitabili per gli empi. 24,27. Finiti i 2 anni, e ci intendesi secondo l'opinion comune i 2 anni di prigionia di S. Paolo in Cesarea. Porcio Festo. Questi andò al governo della Giudea l'anno di Cristo 60. Felice volendo ingrazionirsi co' giudei, e ci pensò con la pena di un innocente di poter placare le strida dei giudei contro il governo ingiusto e crudele, ma non l'ottenne, perché i giudei l'accusaron davanti a Nerone, e non salvò la vita, se non pel favore del fratello Pallante accreditatissimo nella corte di Nerone.